Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Tre file di sedili avanti a me, un uomo e una donna, si parlano. Si parlano guardandosi negli occhi, si parlano in maniera tenera ma distaccata. Sembra un controsenso. Tra loro c'è intimità, ma si vede che questa intimità in qualche maniera vogliono tenerla segreta per gli altri viaggiatori in quel treno. Ci riescono quasi con tutti, meno che con due, con me che per lavoro osservo e con il signore che sta un sedile accanto a me, che li guarda con attenzione e fingendo di telefonare vedo che li fotografa e capisco che non è lì per caso. Lei fa l'investigatore, vero? Sì. Ma di che tipo? Chi investiga? Su infedeltà coniugali, su situazioni familiari, su quello che capita. Ma come accade? Viene uno dei due coniugi e dice sorveglia mio marito o mia moglie, così? Sì, sì, sì. E che alimenti gli dà per farlo? Faccia un esempio di tipica indagine. Allora, esempio di tipica indagine, un marito che viene perché la moglie parte spesso e va fuori con la scusa di una specializzazione. E quindi io la seguo, però non sul treno, la seguo sull'autobus, cioè su un bus di linea che va da sud al nord, attraversa tutta la penisola. Sullo stesso autobus sale lei? Esatto, sullo stesso autobus. E la cosa è tutti, io mi aspettavo di trovare qualcosa lì, nel luogo dove lei si recava. E invece il tutto avveniva sull'autobus. Ah, il tradimento, cioè, avveniva sull'autobus? Sì, con uno dei due autisti dell'autobus. E ma dove consumavano l'adulterio? Ecco, questa è la cosa. Siccome il viaggio avveniva di notte, praticamente avevano occupato le prime due file dell'autobus, quella proprio dietro al conducente e quella, diciamo, omologa sulla fila di destra, no? Ah, quindi si davano il cambio? No, le avevano occupate con delle valigie. Ah. Dopodiché hanno liberato una di queste quando tutta la gente più o meno dormiva, a parte io che ero sveglio. E si accoppiavano su queste lì. Esatto, e avveniva il tutto sulla... Ma com'è? Si davano il cambio di autisti? Uno stava con la signora e l'altro guidava e poi si davano il cambio o soltanto con uno? No, solo con uno. L'altro era d'accordo, però era un complice. Sì, ovviamente. E quindi lei faceva questo viaggio, faceva l'amore e poi faceva finta di fare il corso. Esatto, però io me ne accorgevo perché praticamente questi autobus hanno una specie di specchio convesso che in modo che l'autista possa vedere tutto, diciamo, tutto l'autobus fino in fondo, no? Uh-huh. E da questo specchio che è posto molto in alto, io che ero 3-4 file dietro di loro, praticamente vedevo quello che avveniva, diciamo, nella fila dei sedili, nella prima fila di sedili. Ma proprio un accoppiamento completo, soltanto, no, diciamo. Beh, questo non lo posso, però sicuramente c'erano delle fusioni che erano evidenti. In quel caso cosa fa lei? Fotografa? In quel caso non era possibile perché era al buio assolutamente, diciamo, l'autobus all'interno, perché era di notte. Ma lei non ce l'ha un infrarosso, qualcosa, attrezzatura speciale? Sì, ma io dovevo riprendere questa cosa dallo specchio retrovisore, era un po' complesso. E comunque sia, non era fondamentale ai fini della, diciamo, dell'indagine. Bastava la sua parola, bastava. Esatto, perché poi si può relazionare anche, no? Cioè si può, diciamo, mettere. E quindi il marito cosa ha detto? Quando ha detto sua moglie la tradisce sull'autobus. Esatto, e poi io immagino che abbia avviato delle pratiche per la separazione, per il divorzio, non lo so. Io non è che seguo, diciamo, le cose fino in fondo. Una volta che ho svolto il mio compito, diciamo, poi si chiude lì la cosa. Cioè, però questo è un caso abbastanza singolare, penso, no? Singolare, perché di solito invece avvengono, diciamo, in loco, quindi, cioè, si muove una persona uscendo da casa, prende la macchina, va in un altro appartamento, va in un albergo, o si incontrano in camporella, in macchina, eccetera. E quel caso è di seguirli a distanza. Esatto. Il treno va. Molto spesso quando mi tolgo le cuffiette dello smartphone, non ho nulla da ascoltare, mi scoccia il paesaggio fuori del finestrino, perché magari è buio, magari è quei tratti che sono tutte gallerie che guardi fuori dal finestrino, tanto è tutto nero, tanto vale che chiudi gli occhi, però senti le voci degli altri ti disturbano, nonostante ci sia il segnale che dice: si prega ai signori viaggiatori di abbassare il tono al proprio cellulare e parlare a bassa voce. Figurati, partono tutte le suonerie del mondo possibile e immaginabile e le persone cominciano a chiacchierare, a parlare, quelli che fanno finta di fare i manager, quelli che si raccontano i fatti loro come se nessuno ascoltasse, e quelli come la ragazza che sta qui accanto a me, che sta parlando col suo amico milanese. Lei è siciliana, l'ho capito, l'ha detto, lo dice da 2 ore, si vede com'è vestita, lo si vede dai cartoccini che si porta dietro, quando escono fuori, tutte quei bellissimi involtini belli, profumati, con le melanzane, con i panini, con la milza. No, magari non è così, magari sono gli stick che danno quelli di Trenitalia, che sono sempre gli stessi, dolce o salato. Ecco, salato non si può prendere perché c'è l'aglio, ci sono sempre salatini con l'aglio, perché devo mangiarmi l'aglio quando prendo il salatino in treno? Il dolce sono quei biscottini della nonna che non mangio da quando ero bambino. Ci sono in versione ridotta e mignon, e li danno solo per i treni, ma li fanno assolutamente per tutti i treni d'Italia, sempre lo stesso biscottino, chissà perché. E lei parla, racconta, chissà, dall'altra parte forse anche lui sta in treno, ascolta e parla, anche lui sento che racconta di una ragazza siciliana che gli dice che va a Milano con la famiglia siciliana, li si incontra con i parenti, però lei abita a Roma. Ma pensa un po' che cosa interessante. Ogni volta a Natale si crea sempre questo problema. Dove si passa il Natale? Coi nonni milanesi o coi nonni siciliani? Quest'anno si fa il Natale a Milano. Allora, succede questo, che io adesso sono sul treno, vado a Milano, passiamo il Natale lì. Io vivo a Roma, quindi io mi ricongiungo da Roma, i miei genitori si ricongiungono da Gela e passeremo il Natale in questa bellissima città meneghina, piena di gente che corre, come dice la Mannino, per andare a lavorare, questa cosa non la capirò mai, e passeremo il Natale con i parenti milanesi. Comunque tu invece dove stai andando? Io vado a Milano, tu invece che fai di bello? Ci sono delle differenze, no? Tra le famiglie milanesi e le famiglie siciliane, per le abitudini, per il cibo, per esempio. E quindi sarà divertente anche da parte mia, che sono, come dire, guardo un po' dall'esterno, vedere, no, le differenze di abitudini, di orari, anche di riti, no, del Natale, dell'apertura dei regali, eccetera. E soprattutto della quantità di cibo che consumeranno i milanesi rispetto a quella che riusciamo a consumare noi siciliani. Diciamo che c'è anche una differenza a volte sul tono di voce, sul volume, no? Perché non so se tipo ti è mai capitato, no? Quando certo, naturalmente, no? Sassi, i milanesi, no, mangiano la cotoletta con la schiscetta, i siciliani urlano, no? Mangiano l'arancina con la carne di cavallina, non lo so, ma chi se ne importa, ma pensa un po' te, i luoghi comuni, i milanesi parlano sottovoce, i siciliani urlano, sembra di vedere quei film di Virzì in cui le categorie sono così manichee, così contrapposte, tutto uguali. Poi è fantastico, questa ragazza mi dà l'idea del confezionamento del luogo comune nella telefonata del treno, anche le telefonate d'amore sono tutte così, sullo stesso tono. Chissà perché i treni poi si scervellano, studiano, immaginano gli esperti di marketing, cosa far fare ai viaggiatori durante il viaggio. Qualcuno mette la musica in sottofondo, qualcuno ti dà il wifi farlocco, che è meglio non avercelo che avercelo, ti dà l'illusione che tu possa avere il wifi, poi nel momento buono che ti serve la connessione cade. Ma sarebbe molto meglio registrare tutte le telefonate delle persone che stanno nel treno e poi riproporle in sottofondo, riproporle come colonna sonora costante del viaggio in treno. Sarebbe un bellissimo spaccato del paese. Sarebbe la pantomima degli italiani che recitano di fronte a altri italiani e simulano le vite che loro vorrebbero avere, o simulano l'esistenza che loro non hanno, o l'esistenza che loro hanno, che però non ha valore o dignità di rappresentazione, ma loro vogliono rappresentartela e importarla durante il viaggio in treno, in cui dovrebbero stare tutti zitti, silenziosi, coi telefoni con le suonerie abbassate. E invece non è mai così. Quindi è vero che ci sono tante cose che al sud non funzionano, i trasporti e altre cose, però si mangia da Dio. Cioè, e i dolci, cioè i dolci siciliani e le cose alla ricotta. Allora io quando vado a Gela e sto, che ne so, 2 settimane, mi calcolo, faccio un file tipo in Excel e calcolo quante colazioni al bar posso farmi e quanti dolci alla ricotta mi posso mangiare e magari combinarla con gli amici che voglio rincontrare ma che magari non vedo da mesi, no? Quindi è tutto, come dire, un incrocio, una battaglia navale tra, allora, il cannolo me lo sono mangiato, sì, la raviolina alla ricotta, sì, ma la pizza, quella, la impanata, ma la cosa di Marina di Ragusa me la sono mangiata, ecco, quindi questo incrocio che porta inesorabilmente a un... Il cannolo, diciamo, me lo sono mangiato e chissà, ma chi se ne importa se il cannolo te lo sei mangiato. Te l'auguro di sì, spero che ti abbia fatto bene. Ma anch'io, pensate se io mi telefonassi a un amico improvvisamente, direi: oh, sono gito a Perugia, ho mangiato la torta al tè col pregiutto. Pensare a raccontare quelli che sono i sapori infami della mia giovinezza, come se fosse qualcosa di indimenticabile, qualcosa da lambire nuovamente. Ma sei tu che ti sei affogato, strafanato, ingozzato per i primi 15-20 anni della tua vita di qualcosa di locale, legato al posto dove sei nato, che non c'era altro, stavi lì, mangiavi quello, la mattina mangiavi la schiacciata con dentro il capocollo, la sera mangiavi la pasta con le regaglie, le cose che c'erano a Perugia e i crostini col fegato sopra, capito? Sempre le stesse cose. Te ne vai, non le vuoi più mangiare, manco sentire l'odore, vederle cancellate. No, che le rievo, che ci vai, te le mangi apposta per risentire i sapori del passato. Io vorrei sentire i sapori del futuro, quelli del passato vorrei cancellarli, dimenticarli. Ma perché la gente non impara a stare zitta quando viaggia in treno? Per esempio d'estate, mia sorella sta a Gela per un mese circa ed è bellissimo perché c'è il mare, si mangia come maiali, perché poi è tutto buono e poi costa poco, a parte il fatto che da noi puoi comprare tutto stando comodamente a casa perché ancora vige la bellissima abitudine dei venditori ambulanti, quindi diciamo che la tua giornata può essere scandita, cioè tu puoi regolare l'orologio a seconda del quello della verdura, quello della ricotta, quello della frutta, quindi mia madre, per dire, può anche stare a casa tutta la settimana e continuare a comprare pane e generi di prima necessità. Dicevo, l'unità di misura non è il chilo, no? I miei genitori quando vengono a trovarmi qui a Roma e andiamo al mercatino a comprare la frutta eccetera, mio padre mi dice: ma come un chilo, ma come 3 mele oppure 6 mele oppure 3 cipolle? A borsa, traduco, a borsa sarebbe la busta, che è l'unità di misura, cioè siccome le cose al sud te le tirano in faccia, per mio padre è normale comprare la borsa di carciofi, ce ne saranno tipo 30 e te le regalano, no? Se in quel luogo natale davano le borse di carciofi, uno si domanda, ma domanda peregrina, sciocca, forse infarcita di luoghi comuni, di pregiudizi, di esecrabili retroscena culturali, ma perché allora uno non rimane a mangiarsi carciofi se te li regalano a borse, quando qui un carciofo va pagato, un carciofino spelacchiato, pulito, al mercato, con la signora che finge di essere un'ortolana, ma in realtà abita in un palazzo, si mette lì con le finte unghie nere, perché chi va dal manicure e si fa le unghie laccate, belle, col freno, no, lei va al manicure, mi fa delle unghie listate, vestate di nero, per far finta di fare l'ortolana, andare al mercato, quella col coltellino che pela i carciofi che in realtà vengono dalla Cina e li compro da quelli del Bangladesh e poi te li porto lì e ti dico che sono un'ortolana, con le finte unghie nere ti vendo il carciofino a 6 euro il pezzo, anche con la fettina di limone, tu te lo mangi e sei contento. Va a Gela, che ti tirano addosso a secchiate, invece che startene qui a Roma a mangiarti i carciofini schifosi che paghi 6 euro al pezzo. Non lo so, io adesso mi butto in questo bellissimo milanesissimo Natale e mangerò di nascosto tutti i cioccolatini che mia sorella ha comprato per i miei nipoti e spero di... no, spero, sicuramente mi divertirò e quindi ciao! Sarà una botta di vita inimmaginabile, invidiabile, pensate. Mangia cioccolatini dei nipotini davanti al panettun milanese e stare lì sotto la madunina che te guarda da lassù e sa un Natale fantastico, bellissimo, nella nebbia come nel miracolo a Milano, tutti con le scarpe voleranno via verso la luna, sarà un Natale bellissimo, beata lei. Pensate che triste il mio, lo passerò in treno. Il treno va. No, volevo dire, diciamo, invece qual è un caso più classico che le è accaduto, diciamo, il suo operare classico, aveva detto, segue la persona, poi deve portare delle prove. Sì, ovviamente, prove, a volte fotografiche, a volte delle riprese, a volte si relaziona e basta quando non c'è la possibilità, perché non si va di fronte alle persone a riprendere, no? O a fare delle foto, quindi quando non c'è la possibilità di fare delle foto, si relaziona. C'è stata una volta che si è trovata una situazione per lei pericolosa, che l'hanno scoperta, se ne sono accorti, oppure le hanno detto ma cosa vai facendo? No, direi di no. Situazioni imbarazzanti sì, perché praticamente a volte vogliono venire sul luogo, questo è più le donne. Cioè voglio nel momento in cui avviene, diciamo, il tutto, il tradimento, ammesso che avvenga, diciamo, in per strada. E che in fa? Macchina, in quel caso cosa fanno? Bisogna chiamare la persona e farla venire sul luogo. E questo è avvenuto. È avvenuto e naturalmente sono dei momenti abbastanza complicati. Beh, brutto a vedere, non è bello. Questa sì, urla, strilla, infatti, infame. Infatti, puttana. Infatti per evitare diciamo poi di dovere anche fare delle testimonianze, tribunali e cose, si va via, cioè non si assiste a questo tipo di scene. Perché succedono cose brutte da vedere, secondo me. Sì, io immagino di sì, perché poi io vado via, appunto. Lei dice guarda, sono in questa stanza, stanno qui, ciao, e se ne va. Così sì, sì, sì, o in questo luogo, mi ricordo una volta su una scogliera d'inverno, qui sa che siamo vicini al mare, no? Quindi questi due, tra l'altro era il marito di questa signora, si incontrava con l'insegnante della figlia. Il marito con l'insegnante della figlia? Ah, penso. Sì. C'è una donna era? Sì, no, sì, si insegnava con una professoressa, professoressa della figlia, sì. Insomma, quindi che aveva conosciuto nei colloqui, immagino, di era nata scuola, una storia d'amore, eccetera, tra la professoressa e il padre dell'alunna. Esatto, queste due persone si incontrano, prendono la macchina in pieno inverno, prendono la macchina di pomeriggio, di sera, e vanno su una scogliera sull'Adriatico. E la signora voleva essere avvertita appunto quando avveniva questo incontro e quindi io l'avverto e lei piomba sul luogo e io sparisco alla circolazione, cioè per evitare appunto di... Beh, è anche pericoloso, magari la potrà buttare giù dagli scogli, un momento di rabbia, meglio non può starci. Può fare qualsiasi cosa, può fare. Meglio non sì. starci in quel caso. Esatto, meglio non starci. Un'altra signora arrivò sul luogo e imboccò una strada, diciamo, a doppia carreggiata con uno spartitraffico centrale, la imboccò dalla contromano, diciamo, esatto, contromano, tanto era la foga, diciamo, e la smania di vedere il traditore all'opera, ecco. Esatto. Un altro caso un po' strano è di una signora molto molto fine, molto di classe, che venne, aveva una storia con un sacerdote. questa è una cosa complicata. Aveva una storia con un sacerdote e voleva sapere se il sacerdote la tradiva. Ah, dunque lei ha fatto indagare il sacerdote per sapere se andava con altre donne. Esatto. E lei non le è mai capitato di spiare un sacerdote? In questo caso no. E cosa è successo? Qual è stato il risultato? Il risultato è stato che o il sacerdote era troppo furbo o il tutto avveniva nella canonica, quindi non era possibile, diciamo, documentare questa cosa, è chiaro. Non c'erano segni di tradimento, era fedele. Esatto, non c'erano segni quantomeno esteriori di tradimento. La signora era sposata? La signora era sposata? Sì, assolutamente, sì. Però voleva che il prete che se la trombava fosse fedele, questo era dato. Esatto, cioè. Un'altra invece aveva una storia con un tale, e questo era sposato, aveva l'amante, e lei, diciamo, era la terza in classifica, cioè era uno, non so che ruolo avesse. L'amante dopo l'amante, voleva, era l'amante dell'amante. Esatto, era la terza in classifica, io la definisco così. Moglie, amante, amante dell'amante. E voleva sapere se lui la tradiva e che se quindi avesse una quarta in questa classifica, diciamo. Quindi lei chi c'era prima non gli interessava della moglie dell'amante. Però no, quelle erano scontate, sia la moglie che l'amante fissa. Però vuole sapere se c'era un'altra dopo. Esatto. E cosa hai scoperto? Ho scoperto che effettivamente lei non era passata al quarto polso, ma stava abbastanza giù in classe, perché questo, cioè, aveva un sacco di storie, altri meccanismi, la carne debole, può succedere questo. Certo. E quindi cosa ha fatto? Ha lasciato l'amante dell'amante? No, non lo so, poi io non le seguo queste cose, le ripeto. Queste classifiche, cioè, di solito fino a che punto arrivano? Un uomo quanto può arrivare? Una donna? 5 o 6 situazioni contemporanee per la sua esperienza? No, quella più clamorosa che io ricordo è questa, insomma, no, direi di no. No, ma il fatto non è che uno abbia tante storie, è che qualcuno che sta al terzo posto si preoccupi se c'è un quarto posto, quando già ce n'ha due davanti, questa è la cosa strana. Infatti questa era la cosa strana, cioè che già ci fosse una moglie ufficiale, un amante ufficiale. Pressoché ufficiale, e che lei volesse sapere se veniva tradita o meno. E beh, con quelle ci aveva fatto pace, dopo non voleva più, lo so, capita. E invece gli uomini come si comportano? Gli uomini, direi, intanto diciamo che la percentuale delle donne è di gran lunga superiore rispetto agli uomini. Ah, sono più le donne che vanno dall'investigatore che gli uomini? Esatto, non solo sono di più, ma sono anche molto più precise, cioè io direi che una percentuale del 97% delle donne che vengono, diciamo, poi hanno ragione, cioè l'indagine viene svolta con... Beh, la donna va botta sicura quando c'ha il sospetto. Con successo, perché le donne hanno un fiuto particolare, non lo so, perché sono più attente, non lo so, però è così. Invece gli uomini sono più distratti, non se ne accorgono. Più distratti, certo, e comunque sempre meno indicazioni, meno cose, certo. Quindi sono le migliori clienti le donne, tutto sommato. Esatto, sì. A volte hanno proprio la certezza che dando dati precisi. Ah, quindi già dicono il numero, la persona. Con nomi di persone, con indirizzi, con luoghi, eccetera. Vogliono solo certificare questa cosa. In vista di una separazione, esatto, perché poi ci sono a volte degli interessi economici rilevanti, eccetera. Sì, quando non è in gioco l'amore, è in gioco l'interesse, chiaro. Direi di sì. Lo deve incastrare per poi portargli via più soldi possibile, ecco questo. Esatto. E poi gli altri casi di cui si occupa, ha detto i minori, rintracciare i minori, seguire i minori. Sì, minori per le frequentazioni e per l'uso di droghe. E lei lo capisce se uno si fa, sì, lo riesce a capire. Beh, sì, si può vedere, si può capire sia dai luoghi che si frequentano, ma anche a volte perché questo avviene pubblicamente, diciamo, sulla pubblica via. Questo non può farlo direttamente il genitore, no? È difficile. è sempre un errore che, diciamo, la persona che è interessata, sia che si parli di un'infedeltà coniugale, sia che si parli di minori, eccetera, che faccia questo tipo di... Primo, perché non ha la freddezza necessaria per svolgere questo tipo di lavoro. Bisogna essere necessario. Sono coinvolto, le cose che dicevamo prima, appunto, no? Cioè che una persona può avere una reazione, diciamo, istintiva, che può andare oltre il lecito o l'opportuno, diciamo. Certo, questo è meglio. Lei quando vede il minore, diciamo, nel compiere questi atti, lo deve riferire alle famiglie, certo, è chiaro. Esatto. Gli sono capitate situazioni brutte in questo settore, diciamo, del suo lavoro? Ma situazioni brutte no, non direi, perché poi direi che bisogna essere un po' prudenti anche. Si fa anche una selezione, cioè quando si vede una persona che, diciamo, non è tranquillizzante, ecco, che può avere appunto delle reazioni scomposte o che può rasentare il codice penale, diciamo, e si può anche rifiutare di svolgere un... Quindi se quello che vede il cliente, possibile cliente un po' squilibrato, preferisce perdere diciamo cliente che imbarcarsi in una situazione complicata, sì. Direi di sì. Va bene, è stato un piacere, io devo scendere, ci sentiamo alla prossima, grazie infinite della chiacchierata. Niente, grazie, niente, alla prossima. Arrivederci. Il treno va. Capisco tutto e quindi logicamente do voce all'ascoltatrice che ci ha inviato un'audiolettera perché è rimasta in qualche maniera colpita, se non indignata, dalla precedente audiolettera di una ascoltatrice che scrisse al viaggiatore del treno per raccontargli come lei avesse colmato la lacuna di una separazione dolorosa dandosi a ragazzi più giovani. Trovava una sorta di frenetica illusione di lussurie perdute, di gratificazioni inimmaginabili, andando con ragazzi molto più giovani di lei. Lei diceva che mai si è sentita tanto desiderata, tanto amata, e lei poco importava che questi la considerassero una MILF, che è un termine dispregiativo che ormai è entrato nell'uso comune, fa parte delle categorie di classificazione dei siti dedicati alla pornografia spinta. Le MILF sono le donne piacenti, entrate ormai nella fase della maturità, che potrebbero andare, non so, dai 40 ai 55 anni. Un'ascoltatrice, una fedele ascoltatrice, chiama per rifare il punto. Non tutte sono come la nostra amica che si dà ai giovanotti. Ne prendiamo atto. Caro Nicoletti, ho 49 anni e ho ascoltato la lettera della sua ascoltatrice divorziata che si autodefiniva MILF e che si vantava con orgoglio delle sue conquiste giovanili. A me ha fatto davvero solo tanta tristezza e da coetanea esattamente agli antipodi vorrei avere diritto di replica e dire la mia. Lei nel suo commento ha giustamente fatto notare che andare con i ragazzi sia solo un illusorio riscatto e su questo concordo. Anche io, come la sua ascoltatrice, sono passata per una separazione dolorosa e complicata e dal 2011 non ho avuto altre relazioni. Per scelta mia sicuramente, ma anche perché scovare uomini liberi è un'impresa e se li trovi sono falliti, repressi, mammoni, violenti e senz'altro peggio di quello a cui sono sfuggita. Ho preso il mio tempo per amarmi in tutti i sensi, anche fisicamente. Certo, magari un giro in giostra con un bel giovanotto non mi avrebbe fatto male, ma a differenza della signora desiderosa di mettere in pratica le sue doti amatoriali, la mia dignità non avrebbe sostenuto il confronto allo specchio. Questa amica fa una scelta diametralmente opposta alla precedente. Dopo la sua dolorosa separazione da 5 anni praticamente ha scelto di stare all'asciutto. Non si concede agli uomini, anche se dice che magari un giro in giostra con un bel ragazzo le farebbe piacere, ma chissà perché mette in rapporto la sua dignità con ciò che le offre il suo specchio, come se l'immagine che noi abbiamo di noi stessi fosse la stessa che hanno gli altri. se qualcuno magari quell'immagine la trova desiderabile, ma fosse anche per una sua perversione, per un suo strano disegno di desiderio, ma se la cosa le dà soddisfazione, perché tirarsi indietro? Comunque, continuiamo a ascoltarla. A noi donne non è concesso di relazionarci con ragazzi più giovani, figuriamoci impegnarsi. Infatti la MILF che le ha scritto la mail domenica scorsa non vive i suoi rapporti alla luce del sole. Tutto avviene in clandestinità e solo questo dovrebbe farle capire la realtà. A me è capitato di sentire i ragazzi commentare le loro notti brave con le signore in cerca di soddisfazione del loro desiderio. Non mi pareva ci fosse nulla di positivo. Mi è capitato anche di chiedere ad una mia coetanea, anche lei con la passione con i ragazzi, cosa le piacesse, cosa la motivasse. Sa cosa mi ha risposto? Non sono mai stata desiderata così. La verità è che i ragazzi con una MILF possono trovare sesso senza impegno e gratis. Hanno a disposizione una donna, più o meno brava, che gli regala pure qualcosa. È ovvio che se gli ricapita, non si tirano indietro. Eppure queste donne mie coetanee sono tutte illuse che siano amate da questi ventenni, un po' come i signorotti che si imbaghiscono delle badanti straniere in cerca di sistemazione. Per quanto mi riguarda, io vengo presa spesso in giro per la mia astensione sessuale, non le dico le battute, a cui però ho imparato a rispondere con ironia e lotto ogni giorno perché le donne diventino rispettose delle altre, degli uomini delle altre, ma soprattutto di loro stesse. Un caro saluto, un'ascoltatrice. Cara amica, io non entro in merito su quello che le donne dicono di loro donne. Nessun uomo può prendersi questo diritto. Pensi quello che desidera, quello che vuole. Dice che ha ascoltato ragazzini vantarsi le loro conquiste amorose di donne mature. Guarda, anche gli uomini maturi si vantano delle conquiste di donne contemporanee. Anche gli uomini anziani si vantano di conquiste di donne giovani. Ma ho sentito anche donne di tutte le età vantarsi le conquiste dei loro uomini. Non credo che il nostro livello di soddisfazione possibile debba essere inquinato dal sospetto di quello che diranno poi di noi. Ma cosa ci importa? Godiamoci l'attimo. Lei dice che a voi donne non è concesso di relazionarvi con ragazzi più giovani. Non sta scritto da nessuna parte. E purché non siano minorenni, che è un reato, potete fare ciò che volete, da 18 anni in su, è roba vostra, è roba di chi se la prende, di chi se la conquista. Lei dice che viene presa in giro con battute per la sua astinenza, ma semplicemente perché la ostenta, evidentemente. Faccia una più riservata trattamento delle sue relazioni, a chi le domanda dica sono fatti miei, a chi gli dice ma stai con qualcuno dice non ti riguarda, e viva la sua vita come meglio pensa. Non è questione di rispetto, non è che lei è più rispettosa di se stessa dell'altra amica che va con i ragazzini. Sono maniere diverse per gestire la propria vita. Lei la gestisce astenendosi e ha fatto di questo una gloria, quasi che fosse una martire della castità, ma se questo le fa bene, buon po' le faccia. L'altra la gestisce bevendosi fino a che può il calice della lussuria. Finché il tempo glielo permette, i ragazzi la cercheranno, la lasci divertire, cosa le toglie?